Tempo di sport con Carlo Genta. Ecco, lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Pulici non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli. Ceccarelli verso linea centrale del campo, ha recuperato il pallone. Attenzione, è proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. Abbiamo scelto proprio questo per nella certezza di non fare alcuno sberleffo ai Granata di oggi, che non hanno ancora giocato perché giocheranno lunedì con la Regina. Questo era lo scudetto del Torino del 76. Abbiamo scelto questo perché oggi abbiamo un nuovo amico, un ospite speciale, che non è Andrea Zorzi, che pure è abbastanza vintage. Cominciamo con i complimenti. Bentrovati a tutti, ciao Carlo. Ciao Andrea, bentornato. Hai visto, sono tornato sano e salvo da Vinitaly. Cioè, salvo, sano, vediamo. L'ospite di oggi invece, l'ospite di oggi, per questo sabato un po' da Marcord, che poi ci butteremo anche sulla cronaca, si chiama Massimo Coppola, direttore editoriale di SBN Edizioni, ha curato insieme a Massimo Piccinini un paio di magnifici libri di facce che con Facebook non c'entrano niente, ma sono cibo per la memoria mia e di tanti vecchi come me. 800 24 0024 è il numero verde. Ciao Massimo. Buongiorno, ciao a tutti. Sono Atlante illustrato del calcio 80, anni 80, e Atlante illustrato del calcio anni 70. Sono libri fotografici e ti dico, un giorno in redazione mi sono divertito con i miei giovani colleghi a spernacchiarli, perché io, soprattutto negli anni 80, li sapevo tutti. Da dove nascono questi libri? Ma infatti non abbiamo messo le didascalie accanto alle singole foto, proprio per invogliare questo esercizio di memoria, un po' Madeleine Proustiana, insomma. Sì. Ma le figurine erano il nostro Facebook. Sì. Hai citato Facebook. Nasce semplicemente dal fatto che c'è è innanzitutto un'operazione estetica, nel senso che la cura dell'immagine è la prima cosa che avevo in mente, e nasce dalla voglia di recuperare appunto un'estetica del calcio che oggi è completamente decaduta. Le magliette di un tempo, quei calzoncini con il numero, poi negli anni 80 arrivano gli sponsor e già rivoluzionano tutto. E poi ovviamente, sai, io ho 38 anni, quindi negli anni 80 ero proprio un ragazzino, no? Le figurine, la prima volta a San Siro. Sì. Proprio un mondo che è scomparso. Il calciatore a quel tempo era ancora una cosa vicina in qualche modo, no? Oggi è totalmente lontana, e soprattutto è come se fosse scomparsa la narrazione. Sì. Oggi i giocatori che sono in grado, no, di essere narrazioni vengono emarginati. Perché appunto tu non devi essere una narrazione, tu devi essere un omino della PlayStation che va in campo e fa gol. Guardate Cassano. Certo. Senza Cassano quante storie meno avremmo, e le sue peripezie sono sempre infernali. Prima in copertina, Atlanta anni 80, c'è un Platini ovviamente in maglia bianconera che saluta il pubblico, c'è Geronimo Barbadillo con la maglia biancoverde dell'Avellino. Se giri lo vedi in quarta di copertina. Sì. Vestito da indiano. Sì, vedo anche una Lori del Santo, perché sono immagini non solo di campo, sono immagini di quegli anni, grosso modo vedo una Lori del Santo posare in maglietta bianconera, foto molto bella, e c'è Falcao in maglia giallorossa, c'è Beccalossi impegnato in un'azione di gioco, c'è Maradona che stoppa un vecchio pallone bianco con il petto, c'è Ruud Gullit di spalle con la maglietta numero 10. Ci metterei anche Andrea Zorzi in questo album. Ma infatti io posso dirvi una cosa? Dilla. Siccome non vi siete presentati prima, sì, io lo guardavo e dicevo: porca miseria, c'è i capelli bianchi. È Zorzi. Io sono un po' emozionato. Ma lo facciamo sempre così noi sei. Sì. Zampite di niente, il mio collega collaboratore dice Carlo Genta, vieni pure. Beh, io l'ultima volta che ho visto in un teleschermo un bel po' di anni fa, insomma, ti sei mantenuto bene. Sei un atleta che tiene duro. Visto che siamo in radio, non c'è la conferma video, possiamo dire. A proposito. Ma ve lo assicuro, ragazzi, sono qua io, ve lo dico. A proposito del tempo che passa, tu hai aperto con i file out della vittoria dello scudetto. Sì. Avete sentito come la vittoria dello scudetto viene esaltata, tra parentesi, con un tono un po' più alto, senza urla squarciagola. Sì, sì. Senza un palo oggi è 10 volte più alto come decibel. Ma palo! Esatto. Poi dopo si fa fatica, e quella era la radio cronaca, quindi lì in radio devi raccontare tutto. Pensa che queste cose si fanno anche in televisione, dove tu vedi le immagini, quindi non hai bisogno, e ciononostante si riempie la gente di parole, di urla e quant'altro. Sì, se vai indietro nel tempo poi mi taccio. Niccolò Carosio addirittura sembrava depresso. Rete. No, c'è stato Rete. Sì, Rete. Però capisci, è una narrazione, nel senso che meno, più lasci all'immaginazione in qualche modo, più c'è una narrazione. Io ho ancora una passione, questa recentissima, anzi attuale, ed è come gestiscono il minuto, il calcio minuto per minuto i giornalisti della Rai, sì. Che pur avendo cambiato stile e tono rispetto a tanti anni fa, è comunque rimasta una trasmissione che fa di un lavoro d'insieme l'obiettivo principale, quindi non si vanno sì. sopra, non si massacrano l'un l'altro, se sono 20 secondi risultati e tempo, quello credo che sia una bella... È molto vintage come trasmissione, meravigliosa, ma probabilmente abbiamo bisogno anche di questo, siamo comunque un popolo di nostalgici, no Massimo? Io non sono particolarmente nostalgico, cioè a me piace questo mondo, questo sport che è diventato anche... No, occhio, no, però, perché vintage a volte fa pensare solo alla nostalgia verso ciò che il passato, a prescindere. Alcune cose del passato invece sono fatte proprio bene, sì. Ma bene, sono pensate, sono preparate, sono studiate, e alla fine in televisione o in radio ti rendi conto che quello che tu ascolti e ciò che tu vedi è il frutto di un progetto pensato e allenato per bene, quando invece adesso capita che le cose si fanno in 2 secondi così come vengono. Ma infatti la nostalgia è una malattia di questo paese, adesso senza volare troppo alto, ma è chiaro che uno si rifugia a volte nel passato quando il presente forse ha... Io ribadisco, per me la caratteristica che manca oggi è la narrazione del calcio, l'aspetto polarizzazione c'è, io sono un tifoso rossonero, seguo i ragazzi, sono andato a Londra a vedere Tottenham Milan, ogni volta che per esempio vado a Londra corro allo stadio perché lì posso ritrovare l'esperienza che era andare a San Siro nel 79, nell'80, nell'81. Poi facciamo anche le storie quindi, sui luoghi dello sport. No, ma quello che voglio dire, completo il pensiero di Andrea, è che il vintage è un luogo dell'anima, non del tempo, e lo puoi trovare ancora oggi, per cui andare a White Hart Lane è come, un po' come tornare a San Siro negli anni 80. Dunque, io ho già dei messaggi, 349-238-6666, come questo. Ci sono anche i videogiochi del calcio anni 80, se al libro ci abbiniamo anche quelli, a noi nati nei 70 viene la lacrimuccia. Oppure niente male la depressione di Carosio, scrive Stefano, chiamateci 800-24-00-24, numero verde, poi lo coinvolgiamo anche sulle nostre storie dei luoghi dello sport, dei luoghi dell'anima sportiva, dei ricordi ciascuno di noi. Insomma, facciamo tutte queste cose e parliamo anche di... insomma, di quello che sta succedendo in questi giorni, compreso l'americano a Roma. Tutti i discorsi che faremo anche con voi. 800-24, 0024, traffico. Attenzione, Roma in vantaggio con Pruzzo. Pruzzo ha colpito il pallone di testa e ha intaccato sulla destra di Martina. Per 3 volte, si può dire, da Roma ha cercato la via del gol con prepotenza in questi ultimissimi minuti. È molto importante come risultato questo. Qualche tifoso accenna ora a entrare sul terreno di gioco. Subito è ripreso dal compagno e trascinato immediatamente ai margini del campo. Ecco un intervento di Chiodini, uno scambio sul fulano di destra. Vediamo che in questo momento i tifosi accennano ad entrare sul terreno di gioco, ma la partita ancora non è finita. E allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale, gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione, di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Toccarci un minuto, è la fine! La Roma è campione d'Italia! Sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato. Questo è sempre America con qualche decibel in più qualche anno dopo, 7 anni dopo, nell'83 per lo scudetto della Roma. Però è la Roma, è Roma più decibel di Torino di partenza. Questa non è male di Massimo. Questioni Corpo. Di latitudine. Dici? Sì, assolutamente. Adesso una chicca assoluta. Ecco. Andrea Zorzi che vi dà i risultati della Serie B. In modo vintage, ok? Quindi fallo come vuoi. A Bergamo, Empoli batte Atalanta 2-1. A Cittadella, Albino Leffe batte Cittadella 4-0. Frosinone, Padova, Frosinone 1-1. A Grosseto, Siena batte Grosseto 1-0. A Novara, 2-2 con il Piacenza. A Portogruaro, Triestina batte Portogruaro 2-1. A Sassuolo, con il Varese 1-1. E infine Vicenza-Modena 1-1. Caro Massimo, mai ti saresti immaginato di sentire Andrea Zorzi che dà... Come si è ridotto. che dà i risultati alla Serie B. Ci voleva una voce più a trombetta. 2-2. 1-2. 1-1. Senti, ma i motivi di questo di questi libri? Immagine, mi dicevi, passione per quello che è successo. Non ti piace lo sport adesso? Ma sì! Non ti ci ritrovi? Ma guarda, adesso dirò delle banalità, ma veramente il giocatore di pallone a quel tempo era un idolo che avevi vicino, no? In qualche modo, per esempio, Franco Baresi. No, io sono cresciuto insieme a Franco Baresi. lui avrà qualche anno in più di me, non tanti, 5-6. Vedere questo, o Paolo Maldini, no? Paolo Maldini ha 2 anni in più di me, lui iniziava a giocare a pallone nel Milan, avevo 2 anni di meno e speravo di fare la stessa cosa. E mi hanno accompagnato, cioè, per 20 anni. Il fatto che io sono stato molto felice di avere per esempio Cassano quest'anno tra i rossoneri, ma per me per esempio è insopportabile che a gennaio uno cambi squadra, che sì. Pazzini stia prima di qua e poi di là. Non è che non mi piace, è che c'è proprio questa specie di in realtà è stata la televisione. Sì. L'Atalanta anni 70 si chiama quando la TV non c'era, quando il calcio non era ancora soltanto televisione. Sì. Che fino a un certo punto è stata una televisione narrativa, in qualche modo, che accresceva tutta quest'aura di assurdo spettacolo. Non so, il primo Biscardi, no? Sì. Quelle cose sì. Nascoste. Oggi è molto difficile. Un'altra cosa devastante del calcio di oggi è l'impossibilità di prendere 2 biglietti, chiamare un amico e dire: senti, ho i biglietti per la partita, andiamo. No, no, no, infatti andare allo stadio è un'impresa titanica. Questo, esatto. Poi si chiedono perché la gente non ci va. Esatto. Ma perché? Ora, perché è molto difficile, tra le altre cose, oltre che molto costoso. Non voglio fare l'esterofilo, ma ero a Londra, avevo 3 biglietti, ho chiamato un po' di amici che avevo a Londra quel giorno, ho detto: chi è libero? I 2 che erano liberi sono venuti, non c'era bisogno di carta d'identità, eccetera. Lo stadio White Hart Lane è dentro un quartiere, c'erano 2 signore che fumavano una sigaretta al balcone della casetta di fronte, non ci hanno perquisiti, tutti sono entrati, hanno guardato la partita, hanno bevuto 25 litri di birra e sono defluiti in santa pace cantando e ridendo, io compreso, nonostante la batosta. Questa cosa ti allontana per forza, no? Perché in Italia questo non accade più. Non so neanche più come fare a portare un amico allo stadio, devi fare una tessera, poi provare la tua identità, poi lasciare delle impronte digitali, rubare all'amico la carta d'identità mentre dorme, se vuoi fargli una sorpresa, e comprare il biglietto a nome suo. Sì. Dai, diciamo la verità, è un po' troppo, no? Io non ho frequentando molto gli stadi del calcio, anzi praticamente mai, conosco queste cose perché me le raccontate. Invece rimango molto legato al tema della narrazione, che è una parola che io amo follemente, che però andrebbe un po' ridefinita perché talvolta se ne abusa. E cioè, è vero che ciò che è veramente molto interessante, ciò che tiene inchiodato un tifoso, ciò che è bello leggere o ascoltare, è un filo rosso che ti porta avanti, ti fa vedere cosa sta accadendo, è che con i tempi attuali la narrazione ha un respiro molto molto più breve e forse c'è un limite al di sotto del quale non puoi andare. Sì. Perché le altre sono notizie, sono cronaca, sono ansa o via dicendo. E quindi la narrazione ha bisogno anche di un po' di impegno di chi legge o di chi ascolta, di un po' di tempi e di un po' di studio per chi lo fa. Tutte cose che non credo ce ne siano. Non c'è. Che per fortuna esistono, se no noi non saremmo qua a parlarne per radio, attraverso questo mezzo che è vintage per definizione. Ma infatti, secondo me, non è tanto. Cioè, i commentatori, sì, alcuni hanno delle colpe, secondo me. Ma è proprio. Allora, la carne del calcio è il calciatore. Il calciatore, una volta, se sfogliate l'Atlante 80, vedete Pruzzo al mare o a sciare, Falcao con 25 ballerine, chiaramente Brillo, vedete delle persone adesso potevi incontrare. Cioè io mi ricordo ancora quando da piccolo incontrai per strada Gianni Rivera, a momenti mi viene un coccolone, avevo anche un pallone e abbiamo fatto 2 palleggi di testa. Cioè io per strada incontro Gianni Rivera e ci faccio 2 palleggi di testa. Cioè oggi ti accorgi che c'è Ibrahimovic nel quartiere perché ci sono 4 bodyguard. Capito? E 12 SUV che lo placcano. Essendo quindi il calciatore una cosa oramai completamente estromessa in realtà dallo spettacolo, perché non è il centro dello spettacolo, è la rappresentazione dello spettacolo, questa narrazione si fa un pochino più difficile. C'è anche Hansi Müller con il gatto. C'è appunto Falcao. Molto icona gay Hansi Müller col gatto, sì, devo dire. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, stavo dicendo io. C'è Falcao con la signora bionda, c'è Pierino Fanna, Barbadillo con la famiglia, Falcao sempre che telefona, Falcao molto gettonato, soprattutto nella vita fuori dal campo. Beh, che stile, scusami, faceva delle cose, si faceva fotografare, era una miniera. Sì, sì. Peraltro sì, chi ci ascolta può andare sul nostro sito, così Brasile, mentre parliamo può vedersi un po', sì, un po' di queste foto. È che li conosco anch'io questi, hai detto dei nomi che anch'io conosco. Perfino tu. Perfino io conosco. No, ma poi anche il vestiario tecnico, no? Che stile, guarda quella felpa di Falcao con quella doppia riga arancio e rosso, guarda che bellezza. Quella, sì. Guarda, sì, che qual è la tua maglia, al di là dei colori del cuore, la tua maglietta preferita di quegli anni? Questa è una domanda difficile, ci devo, sì, pensare un po'. Le nostre striscette rossonere, sai, ce l'ho veramente. Quella con le strisce strette? Sì. Quella, cioè, della Roma dello scudetto non era male, abbastanza. Quella era splendida, però sai, la prima volta in cui sono sono entrato, la prima volta che sono entrato a San Siro era un Milan-Fiorentina del 79, c'era ancora Rivera e avevano la maglietta rossa e nera con le strisce molto strette, calzoncini bianchi con riga laterale nera e numero nero sulla sinistra, sì, sui calzoncini. Sì, sì. Per me quella è l'immagine. Andrea, stavi dicendo? Che essendo un po' super parte, se non ho mai avuto una squadra del cuore, se non quando ero piccolo piccolo, che era la Juve, sì, perché mio padre era tifoso della Juve, anche lui poi ha abbandonato, credo che quella che graficamente mi è rimasta più impressa è quella della Sampdoria, sì, che non è bella, secondo me non è una bella maglia, non è graficamente, però è qualcosa che pur nella semplicità, quindi non con... è quella che secondo me ha graficamente qualcosa che ti prende. Ma ha ragione lui, secondo me la Roma è quella che ha più, che negli anni, anche oggi la maglia della Roma è rimasta molto bella, sì, secondo me. È una delle più belle. C'è chi scrive, Enrico da Varese, a proposito di nostalgia, per me parata di Zoff è un'unica parola, poi avremo anche a questo proposito una scheda di Cristiano Bartelloni ad hoc. Io invece, questi sono giorni però in cui noi stiamo discutendo di queste cose, ma intanto arrivano gli americani a Roma. Maccheroni. Non ce ti distruggo, Senac. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Ti sembri un verme, Macrone. Questa è roba americana, vedi? Yogurt, la mostarda, o latte. Roba sana, sostanziosa. Macrone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Non siamo così originali, non siamo così originali, però, insomma, chissà se gli americani, caro Massimo e Andrea Zorzi, conoscono la storia del nostro calcio, se conosco il nostro passato, non credo, ma soprattutto se sanno in quale vespaio hanno infilato la testa. Io ho seri dubbi. Non ne hanno la più pallida idea. Andrea? Io di sicuro non ce l'ho, però mi è sembrato che le prime mosse italiane di Benedetto, giusto? Sì. Non fossero di uno che ha veramente le idee molto chiare su come muoversi. Sì, si è presentato a Milano come il pontefice massimo, ha fatto visita di qua e di là, poi c'è stata questa lunga trafila, poi è bastato dire, ma quello stadio lì non è un granché, magari lo rifacciamo, apriti cielo, non sanno, lo secondo stadio me, olimpico di Roma tu arrivi. No, ma, ragazzi, adesso io non lo auguro ai giallorossi, che sono una squadra che, insomma, per cui provo una forte simpatia, sì, ma al primo derby che la Roma perde malamente con la Lazio, il presidente si accorgerà, il neopresidente a stelle strisce, si accorgerà di essere finito in un universo parallelo, sì, cioè il concetto di derby, semplicemente lui non può sapere cosa sia, il concetto di derby di Roma supera ogni possibile definizione. No, ma poi, cioè, è in un mondo in cui i programmi si fanno a cadenza mensile, no? Quattro partite, se le perdi tutte e quattro devi cercarti un allenatore nuovo, ti trovi i tifosi sotto casa nella migliore delle ipotesi, quando non dentro casa, in cui ti devi abituare alle zuffe, ai diritti TV, alle moviole, al mercato, eccetera eccetera, cioè è molto complicato, cioè il calcio italiano è l'Italia. Ma il neopresidente ha mai vissuto in Italia o è cresciuto? No. Di Benedetto è chiaramente italiano. Sì. Ma guarda, io non seguo queste, in realtà proprio il livello che meno mi interessa del calcio è proprio quello, presidenti, soldi, insomma, non ho seguito bene, ma a me sembra di aver capito che questo sia un finanziatore, non credo che in qualche modo prenderà nessuna decisione, avrà dei direttori sportivi, avrà dei consiglieri, avrà, immagino, perché se no la Roma è tutto poco chiaro, bisognerebbe, no, se no sono spacciati, perché ci vuole un pelo di esperienza per gestire la S Roma, no? No, tuo amico Giampaolo Montali, vediamo, lui si è fatto un po' di esperienza in questi anni, sì, mi pare si sia mosso egregiamente anche, sì, questo cambio di proprietà. Adesso non so bene quale sia il suo ruolo, vociferavano di Ancelotti come obiettivo per il nuovo tecnico. Vabbè, ha imparato l'inglese, questa è una mossa interessante, riportare Ancelotti a Roma perché nel frattempo ha imparato l'inglese. Beh, grande Carletto, se tornasse sarei felicissimo. Sì, anch'io. Grand'uomo. Anch'io sarei molto contento di un suo ritorno in Italia, anche perché poi l'hanno trattato abbastanza male, secondo me, in Inghilterra in quest'ultima stagione. È vero che non sta facendo certamente una grande stagione. È vero che si trova uno spogliatoio a pezzi e forse una squadra a fine corsa, però è stato maltrattato abbastanza e questo mi ha dato un po' fastidio. A me di Carlo piace moltissimo la stabilità, sì, nel bene e nel male. Quando le cose vanno bene non si esalta, quando vanno male non si agita troppo. Guarda, è solo il sopracciglio. Cioè tu devi misurare l'escursione tra palpebra e sopracciglio. Se le cose vanno veramente male l'escursione è ampia. E invece a cena Carlo Ancelotti devo dire che in un luogo che gli risulta essere familiare, Sarebbe bello se questi americani, oltre a portare il grano, portassero anche quella cultura sportiva che oltre oceano è sacrosanta, eccetera, eccetera. È molto più facile importare qui i soldi che portare quella cultura sportiva. Sono mondi diversi, ma sotto ogni profilo, no? Con Kobe Bryant che per un fake fagot pescato, rapinato gli dalle labbra dalle televisioni, è stato multato di $100,000. Come sappiamo è storia di questi giorni, ma soprattutto è stato crocifisso da un'intera comunità, no? Quella dei gay americani, insomma, si è dovuto scusare in mille modi, aprendo un caso politico. Queste cose in Italia non succedono. Guarda, la cultura sportiva è una di quelle tante cose che non si possono esportare impacchettandole e impiantandole in un altro luogo. E non è l'unica, la democrazia è un'altra, secondo me. Sto dicendo la stessa roba. E quindi sarebbe molto interessante vedere quali sono gli aspetti nei quali possiamo migliorare, per far riferimento a chi su alcune organizzazioni funziona meglio di noi. Non riesco ad immaginare un'Italia che nel giro di poco tempo, con l'ingresso di un americano alla Roma, possa cambiare le sue modalità di gestione. Parla moltissimo di fair play di Benedetto, perché Platini insiste molto in questo periodo nel cercare di porre un freno a una gestione quantomeno ballerina. Credo che sarebbe già moltissimo vedere che sinceramente ci sia un po' di interesse nel fare i conti con onestà e con molta attenzione. Fermiamo un attimo. Dobbiamo anche... Dimmi, Massimo. No, volevo solo dire che altri americani che sono sbarcati in Europa hanno avuto sorte piuttosto difficile, perché per esempio sì. Se pensiamo a Manchester United, in cui la tifoseria intera da credo 3 anni si veste di giallo e di verde in omaggio ai colori del vecchio Manchester United, rivendicando proprio un'appartenenza, una tradizione, identità. Io credo davvero che forse uno dei pochi ambiti in cui non sia assolutamente pericoloso difendere anche a spada tratta identità, tradizione, se proprio il calcio, sì, sì. Perché lì puoi farlo senza danneggiare alcuno, perché è un gioco. Sono d'accordo, assolutamente. Ci fermiamo, 800 24 00 24, se ci volete venire a trovare. A dopo. Lunga attesa ma ripagata, spero. Torniamo insieme con Andrea Zorzi e oggi con Massimo Coppola, a cui dobbiamo questi bellissimi Atlanti illustrati del calcio anni 70 e 80. Immagini, narrazione, fotografie, come ci stava spiegando e raccontando due ascoltatori, uno da Chieti e uno da Foggia, Gianni e poi Edmondo. Buongiorno Gianni. Sì, buongiorno a voi. Allora, io non sono tanto appassionato di sport, perché probabilmente sentendo le notizie normali oggigiorno la passione la fa proprio la fanno passare. Comunque quello che vorrei dire è semplicemente criticare immediatamente l'americano. Beh, voglio dire, l'americano è venuto intanto sta cercando di risollevare una squadra che sotto l'aspetto economico forse ha qualche problema. Sì, forse qualche possiamo toglierli. Ok, no, io rimango sui generis. Poi voglio dire, viene da un paese dove, sì è vero, non c'è la cultura sportiva primaria, non è il calcio, però comunque è il Super Bowl. È il Super Bowl, ma Gianni, ma assolutamente. Cioè, ma no, io non... Io quello che volevo dire, comunque a livello di violenza, cioè sul Super Bowl non si è mai sentito niente di quello che accade normalmente in Italia. Ma guarda, certo, che non sto dicendo che è peggio, anzi, per la stragrande maggioranza degli aspetti è... io preferisco il modo di vivere lo sport degli americani. Può essere un punto di vista diverso rispetto a quello che abbiamo visto noi. Poi voglio dire, ha criticato lo Stadio Olimpico e subito Carraro si è un po' indispettito. Sì, voglio dire, però se io vedo Storia la notizia la sera, mi fa vedere tanti quegli stadi contribuiti, fatti da noi contribuenti, che però non arrivano mai alla fine e quindi soldi buttati. Forse Carraro si dovrebbe indispettire più per quello che per qualcuno che con soldi privati si vuole costruire uno stadio, forse. No, ma certamente sotto tutti questi, o la gran parte di questi punti di vista, ha ragione. Quello che mi domando io, ma non è una critica, mi domando io se hanno idea di com'è lo sport in Italia, soprattutto il calcio. Hanno già ricevuto un monito da uno che se ne intende, Silvio Berlusconi, che gli ha detto benvenuto, ma non si aspetti di fare soldi con il calcio, perché in America si fanno soldi con lo sport, è un business molto differente dal calcio italiano. Non c'è alcun dubbio, e senza voler entrare, ci mancherebbe altro, in una disputa di natura organizzativa politica, arrivava, guardava l'Olimpico, non diceva nulla, anche se non gli piace. Costruisce lo stadio di proprietà, lo fa funzionare, ci prende un sacco di soldi, lui è contento, gli altri anche, invece di attirarsi un sacco di critiche da Petrucci, del CONI, dagli altri dirigenti, ecco, un altro che arriva, parla, dice e poi vediamo cosa combina. Ma in realtà poi noi parlavamo della oggettiva verità che riguarda l'impossibilità di importare la cultura sportiva americana attraverso l'acquisto di una squadra italiana. Ripeto, compri la Roma, non stai comprando la Lega Calcio Serie A o la storia del calcio italiano. Sì, sì. Questo non vuol dire che, almeno personalmente, io ritenga la cultura sportiva italiana superiore a quella americana. Al contrario, la cultura sportiva americana è qualcosa che dobbiamo imparare. Lì succede una volta ogni 15 anni che due fanno a cazzotti nelle tribune. Sì, sì. Quindi basterebbe questo. Quindi no, era semplicemente... Poi abbiamo sentito il pezzettino di Alberto Sordi, la linea di discussione era quella, cioè vediamo un po' cosa succede. No, ma perché siamo curiosi, potrebbe davvero essere una strada nuova, così come potrebbe essere qualcosa da cui non... Guardate, l'ironia dei tifosi giallorossi si scatenerà presto, ne sono certo. Edmondo da Foggia, buongiorno. Sera, buonasera a Dica. Tutti, a Coppola, a voi, a Zorro. Siete sempre mai banali con le vostre cose. Ci proviamo. Due cose molto rapide, due argomenti diversi. Uno, mi riallaccio alla storia che c'è oggi Massimo Coppola con la Manacco e con l'accenno fatto anche alle figurine, no? Io ho un figlio di 11 anni, facevo io la raccolta quando ero ragazzino e la trovavo più semplice, nel senso che si comprava una figurina ogni tanto, una bustina ogni tanto, la domenica se ti andava bene te ne compravi 5 perché sì. C'era il nonno che ti regalava 5, poi facevi gli scambi . E la cosa finiva abbastanza rapidamente perché ce n'erano poche. L'ultima raccolta fatta, non dico nomi per non fare pubblicità, ma insomma si sa chi la fa, è ciclopica, è una cosa, sono 750 figurine e ho scoperto questo mondo pazzesco che non conoscevo, dei luoghi dove si fanno gli scambi. C'è un posto a Foggia dove la domenica mattina vanno praticamente i padri, perché poi la raccolta la fanno i padri, con fogli, fogliettini, cose, cioè, ed è... Sì. Lo trovo un mondo, come posso dire, poco da amatore, da raccolta figurine, molto da commercio. È venuto il pullman a Foggia della Panini, per venire forza pubblica, la forza pubblica. Non è una cosa terribile. Ma sa, è più tutto, no? Ci sono più, innanzitutto... Dicevo in apertura, non sono uno particolarmente nostalgico, però mi sono messo a sfogliare l'Atlante e riconoscevo i giocatori, ma anche perché ce n'erano di meno, no? Adesso quanti giocatori ci sono? Una squadra prima aveva 11 in campo, 12, 13, 14 e finita lì, no? E di solito 12, 13, 14 erano delle pippe incredibili, no? No, io voglio dire al nostro ascoltatore, bisogna rallegrarsi se le figurine hanno ancora questo appeal. Ma va certo. Benissimo, evviva! Poi in realtà la cosa che... io ho un figlio di 2 anni e 8 mesi, ho provato a far finta che lui facesse la raccolta per provare a farla un pochino. Dai, 2 anni è presto. Ti ho detto, era tutta una finta. Però un paio le ha attaccate. Ma la cosa incredibile è che c'è lo spazio per gli scambi di mercato di gennaio. Quindi tu nello stesso album hai Pazzini, blu cerchiato, e Pazzini era azzurro. Ecco, quello è un confine che l'ho già detto prima. Per me, quello è un confine invalicabile. Che lì siamo nel dogma. Cioè, secondo me, quello è il peccato mortale. Pensa se facevamo le figurine a pallavolo e c'eri tu con 2 magliette, Non si poteva fare. No. Oh, il mercato vende moltissimo, ragazzi. No, ma certo, ma ci mancherebbe. In questi giorni ho fatto un salto in Gazzetta. Mi raccontavano che durante le Olimpiadi, quindi il massimo evento sportivo in assoluto, talvolta sono un po' in difficoltà perché un titolo sulla Olimpiade fa vendere un po' di meno. Ma te l'ho detto talmente tante volte. È un possibile acquisto di mercato. Andrea, certo. È l'ultima frontiera del sogno il mercato, ma per i discorsi che stiamo facendo adesso in televisione vedi tutto, il mercato è l'ultima cosa che tu non vedi, l'ultimo volo di fantasia che è rimasto. Io ho questa idea. Sì, ma poi il vecchio detto tira più un colpo di mercato di un carro di buoni. Non è così vecchio. Aspetta, non è così vecchio. E non è neanche così. Non è neanche così. È così. Fate i bravi. Ci fermiamo un secondo, pochissimi secondi per il traffico. Poi da Andrea d'Aosta, poi voglio farvi sentire, per rimanere in tema, una scheda legata a quel parata di Zoff, una parola sola. che cui faceva riferimento prima un ascoltatore. Traffico. No, vi dico che c'è Andrea Zorzi, no, estremamente interessato alle pin-up degli anni '80 con Sabrina Salerno in Sabrina Salerno. Ma non l'ha riconosciuta, perché essendo un atleta non ha riconosciuto, gli era vietato, non poteva, non poteva. Radio ascoltatori, ascoltate, mi passano l'Atlante illustrato del calcio degli anni '80. Parla solo di calciatori. Apro a caso io una pagina e vedo la Salerno stesa per terra in posizione, voglio dire, ecco, è molto anni '80, no? Ascolta, non anche le pin-up. Quelli sono, quelli sono i primi anni '80, io avevo 11-12 anni. Quando mi sono messo a fare le ricerche per questo Atlante, ogni tanto trovavo delle fotografie, le guardavo e dicevo, questa foto mi ricorda qualcosa. Stile drive-in, ve lo dico. C'erano sì, esatto. Erano sul Guerin Sportivo, tra l'altro, sì, molte, sì, molte di quelle foto. Andrea d'Aosta, buongiorno. Buonasera. Buonasera, dica. Avrei una domanda da farvi. Prego. Non riesco a capire il perché dell'importanza della legge sugli stadi che è ferma in Parlamento. Non ultimo ho sentito il presidente del Napoli, De Laurentiis, che diceva che fin tanto che questa legge non si sblocca, il nostro calcio non potrà risalire la china. Ora, la domanda che vi faccio è questa. Non riesco a capire che bisogno ci sia di una legge. Se io voglio fare business nell'ambito dello sport, mi costruisco il mio stadio e non ho bisogno di nessun provvedimento normativo. Forse perché dà un accesso agevolato al credito o... Non capisco perché, ecto, se volete spiegarmi questa cosa. Ma mi pare la Juventus il suo stadio lo stia già facendo, così come la Reggiana lo stadio del Giglio. Io non questo è un domandone, non saprei dire quali siano i contenuti di questa legge, quali problemi ci siano reali per chi vuole costruirsi uno stadio. Mi pare che al netto di questa legge chi ha seriamente voluto mettere in piedi uno stadio, come la Juventus per l'appunto, lo stia già facendo. Quindi è chiaro che in Italia non c'è la cultura dell'impianto sportivo di proprietà, perché questa appartiene ad altri, ad esempio gli americani, ad esempio gli inglesi. Io sono favorevole all'idea di avere un bene che produce dei quattrini, un bene immobile che fa parte del patrimonio della società, nel quale ti gestisci l'afflusso dei tifosi, le riparazioni, i servizi, tutto quanto mi sembra un segno di progresso e civiltà. Poi non so, qui serve una legge per qualunque cosa, sapendo anche questo che lo sappiamo, no? L'impianto di proprietà è possibile solo in casi di sport che hanno una certa popolarità e un certo giro anche economico, perché in altre situazioni invece è veramente molto importante che ci sia una gestione quantomeno comune o l'intervento anche delle istituzioni, perché non sempre ciò è possibile. Quindi una distinzione tra sport professionistico o comunque di alto livello e meno va sempre fatta, se non ricadiamo in quel discorso che in Italia, sì, sì, se parli di sport pensi a quelle poche squadre famose e molto ricche e ti dimentichi che lo sport è un universo molto più grande di quanto ci ricordiamo. Sicuro. Scheda, Cristiano Bartelloni. Ha parlato Zoff. Le parole sempre misurate di Nando Martellini tradiscono l'emozione. Era il 5 luglio 1982, battute finali di Italia-Brasile. Il colpo di testa di Oscar è l'incubo che si palesa a pochi secondi dalla vittoria. Dino si allunga, abbranca il pallone, che però continua a rotolare beffardo, come spinto dal destino. Ma poi finalmente si ferma, a 10 centimetri dalla linea di porta. Siamo salvi grazie a quelle mani grandi, da papà, che pochi giorni più tardi solleveranno il trofeo più ambito, la Coppa del Mondo. Nato il 28 febbraio 1942, perché il 29 sarebbe stato troppo da protagonista, è stato il portiere della nazionale per 15 anni, dal 1968 al 1983. Dino, friulano dall'espressione seria, gioca a calcio come si trattasse di un mestiere qualunque. È un artigiano, non ha atteggiamenti da divo. Dopo aver appeso i guanti al chiodo, passa alla panchina. Le sue squadre sono come lui, senza grilli per la testa, concrete e vincenti, tanto da meritare la panchina della nazionale. È l'inizio di una cavalcata che ci porta alla finale degli europei del 2000, ma il gol di Viltor e poi di Trezeguet ci strozzano l'urlo in gola. Il giorno dopo Silvio Berlusconi critica apertamente le scelte di Zoff, ma Dino non ci sta. Rassegna irrevocabilmente le dimissioni da commissario tecnico. Non c'è più posto per i suoi silenzi nella Babele che è diventato il calcio di oggi. E se c'è un parata di Zoff che tutti ci ricordiamo, è proprio quella che ci ha praticamente regalato un mondiale. Questa è per te, eh? caro Massimo Coppola. Ma Dino Zoff è Dino Zoff. L'altro anno, per caso, io credo, ho vissuto a Roma per un paio d'anni e credo che anche Zoff vivesse nello stesso quartiere, perché l'ho visto spesso in trattoria. Io non riuscivo a mangiare vedendo Zoff dall'altra parte, mi sembra di mancare di rispetto. Cioè, la sua uscita di scena dal calcio è quanto di più doloroso possa capitare, sia capitata nella storia, sì, del calcio italiano, perché è veramente una storia squalida. Peraltro poi noi perdemmo quella partita in un modo assurdo, io per di più ero anche a Parigi, quindi è stata veramente una... Beh, ma poi ci siamo ripresi tutto con gli interessi. Assolutamente sì. Ma Zoff, ovviamente, intanto Zoff sta tra 70 e 80, quindi in tutti e due gli Atlanti. Sì. E poi appunto è proprio questa... La cosa che dicevo prima, il calciatore vicino, la cosa che veniva citata nella scheda è molto importante, faceva il calciatore come se si trattasse di un mestiere qualsiasi. Questa è una cosa straordinaria, perché è proprio lì che si crea la grande narrazione, l'epica, no? Non in quello che continuamente dice: guardi, io sono il calciatore, ho tutte le sopracciglia profilate, sparo un sacco di cazzate. Zoff era sempre lì, fermo, immobile, no? In quel modo. Vi racconto due cose di Dino Zoff che ho vissuto non direttamente, ma non raccontate. Ha pubblicato un libro. Il titolo è Tra i legni, i voli taciturni di Dino Zoff. Va alla presentazione, parla pochissimo, alla fine gli chiedono di mettere una firma sul muro dove si è fatta la conferenza stampa. Lui ci pensa un po', prende il pennarello e scrive: senza parole, Dino Zoff. Per cominciare, è un artista. Poi il libro l'ha scritto insieme con Giuseppe Manfredi, che è anche un autore teatrale, il quale, dopo i dialoghi con Zoff, andava lì che aveva una paginetta. E adesso io come lo scrivo un libro con una paginetta, visto che Zoff... Ed è riuscito a costruire, però, come dire, usando solo come riferimento le parole di Zoff. Alla domanda: ma tu come stavi in porta? La risposta fu: come mio zio, che durante la guerra, quando c'erano i soldati avversari, si metteva davanti alla porta quei gomiti larghi per impedire che nessuno entrasse nella sua porta. Ebbene, io stavo in porta in questo modo, sapendo che il portiere è l'unico che gioca contro 21 giocatori. Anche i tuoi sono potenzialmente degli avversari. Sì, sì. E io stavo lì con le mani aperte perché nessuno poteva entrare in quella porta. E con questo racconto di Andrea Zosi vi voglio salutare. Pensate cosa vi siete persi. Nella prossima ora vi avremmo parlato, ipotetiche, avremmo parlato di Mourinho e dei giornalisti spagnoli che si alzano. Potevamo parlarvi magari anche un po' di cronaca, di da Mazzarri che continua a sognare, a Del Neri che cerca la sua Juventus a 6 giornate dalla fine del campionato, come lui ha detto oggi: dobbiamo vedere chi siamo. Ma come? Manca 6 giornate. Di Modena, di Modena volle che pareggia, va 2 pari, va una gara 5. Di Modena vuole che pareggia, va 2 pari, gara 5. Vi avremmo fatto sentire Staffelli con Ibrahimovic, una delle perle della settimana. Ma allora questa ora è finita, per la prossima ripassare, e magari Massimo Coppola tornerà a trovarci, io spero. Beh, intanto grazie a tutti, agli ascoltatori e a voi di avermi invitato. Andrea Zozzi invece, ciao a tutti, torna, alla prossima. Settimana prossima, sabato c'è campionato, quindi andremo di cronaca. Domenica per il giorno di Pasqua, nessun problema, vi teniamo compagnia, io e Zorro, tranquilli. Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Con lo sport ci sentiamo domani dalle 4:30 alle 7 con il calcio, 8:30 a 9 per il basket. A domani.